Yes, people. Yes, yeah, people. Yes, people, questo è Jolly Roger. Iniziamo questa nuova puntata, ultimo giorno di marzo, finalmente. E spoileriamo anche una bella notizia: siamo ufficialmente ritornati in quel della bolla del Brancaleone dopo circa 4-5 mesi in cui ci siamo spostati per motivi tecnici e pratici. Quindi siamo contenti finalmente di ricondividere seriamente lo spazio insieme alla nostra amica del gas. E puntata che innanzitutto saluto tutte le amiche e tutti gli amici che ci seguono tramite diretta e tutti quelli che ci ascoltano via social o ovviamente tramite podcast. Un saluto a tutta la Gemini Network che è stata qui presente al Brancaleone la settimana scorsa per l'iniziativa del Gemini Day. È stato un piacere rincontrare tante realtà di tante radio indipendenti, cosa che servirebbe più spesso. Insomma, vederci e soprattutto condividere tante belle iniziative. Questa è una puntata in cui manca il nostro amico Luca per problemi di salute. Noi lo salutiamo, anche lui ci sta ascoltando da casa. E niente, iniziamo questa nuova puntata. Settimane precedenti abbiamo parlato un po' di Made in Italy, abbiamo raccontato alla nostra maniera il Made in Italy. Questa puntata invece racconteremo quello che sono le periferie di Roma, nello specifico le nostre periferie, quelle che viviamo e che frequentiamo quotidianamente. Iniziamo la nostra puntata con un pezzo che aveva portato il nostro amico Luca, ma non essendoci, lo salutiamo con il pezzo scelto da lui. Bambini giocano in strada, sognando Messi e Neymar. Correndo dietro a un pallone, in fuga dalla realtà. Dovresti sei così bella, sei protagonista tra mille comparse. Alza sto bicchiere per chi se n'è andato e questa sera assente. Perché in questo mondo se sei troppo buono ci rimetti sempre. Parte un coro dallo stadio che sente tutta la città. Perché ho fatto mille strade da adesso in poi non mi ferma niente. Mentre la curva si accende sotto sto sole caliente. Saremo uniti per sempre se vinco, se perdo con te mon ami. Hey, benvenuti in Italy. Hey, vinto con la squadra. Gente, non toccherà la nostra energia. A guardarla da qui, la città insieme a te vorrei fosse in eterno. Ehi, come un gol allo stadio, mentre sono in curva allo scontro diretto. Ehi, mi profumi di strada, perciò non mi servono frasi ad effetto. Ehi, ti accontenti con poco? No, tu per me non sei un gioco. Gli occhi dei bambini di qua, quante cose hanno visto già. Amami se sbaglio, nei momenti brutti, ad amare quando è facile, sono bravi tutti. Parte un coro dallo stadio che sente tutta la città. Perché ho fatto mille strade da adesso in poi non mi ferma niente. Mentre la curva si accende sotto sto sole caliente. Saremo uniti per sempre se vinco, se perdo con te mon ami. Hey, benvenuti in Italy. Hey, vinto con la squadra mi. Hey, se non mi dirai di sì allora se la vi, allora se la vi. Hey, benvenuti in Italy. Hey, religione, calcio e spritz. Ciò che dice questa gente non toccherà la nostra energia. Baila, baila, baila, baila, baila su una spiaggia metropolitana. Dentro un bar sperduto di provincia, fino a che la notte ricomincia. Baila, baila, baila, baila, baila senza tacchi a piedi sulla strada. Balla mentre metti a posto casa e non fermarti più. Parte un coro dallo stadio che sente tutta la città. Perché ho fatto mille strade da adesso in poi non mi ferma niente. Mentre la curva si accende sotto sto sole caliente. Saremo uniti per sempre se vinco, se perdo con te mon ami. Hey, benvenuti in Italy. Hey, vinto con la squadra mi. Hey, se non mi dirai di sì allora se la vi, allora se la vi. Hey, benvenuti in Italy. Hey, religione, calcio e spritz. Ciò che dice questa gente non toccherà la nostra energia. E ritorniamo in diretta. Questo era il primo pezzo che abbiamo dedicato al nostro amico Luca, che in questa puntata non sarà presente con noi, ma sicuramente è all'ascolto. E iniziamo questa nuova puntata parlando, appunto, come spoilerato prima, delle periferie romane, o meglio le nostre periferie. Noi stiamo qui in quel di Montesagro, nel terzo municipio, abbiamo delle periferie, i ragazzi abitano in periferia perché non siamo nel centro di Roma e ovviamente ci stanno con tutti i pro e con tutti i contro del caso. E quindi ora passo il mic alla nostra amica Alice e gli faccio subito una domandina, così iniziamo l'argomentazione. In che zona di Roma abiti? Fidene. Perfetto. Fidene più Fidene Colle Salario, precisiamo. Sai cos'è una periferia, o meglio, dici che cos'è secondo te la periferia, la tua periferia? La mia periferia è dove si... Dove si abita, dove si vive, dove in genere anche, non solo dove si abita, ma in genere dove stanno anche i negozi, e magari discoteche. Anche. Sì, discoteche un po' di meno perché la vita notturna non è proprio particolare nelle periferie, però insomma ci sta qualche localetto dove sì, andare. Esatto, ci sta anche qualcosa di più bello. Però come dicevamo prima, sta più in zone centrali di Roma, ovviamente. Più vicino casa c'ho danza. Sì? C'ho anche piscina. C'ho una piscina vicino casa, c'ho pure una piccola saletta dove io facevo danza, però ormai faccio piscina, E adesso vado in piscina, come. Medica, insomma, diciamo che comunque le periferie del terzo municipio sono periferie tranquillamente vivibili, insomma, cioè sono cuori pulsanti anche di cultura e di sport. Sono tante le associazioni sportive che hanno sede nelle periferie di Roma e servono soprattutto anche, diciamo, non è il nostro caso, però è il caso magari, diciamo, di sottrarre, cioè dove si può alternare, cioè utilizzare lo sport a posto della strada, insomma. Quindi questa è. Ora noi andiamo col primo pezzo che ha portato la nostra amica Alice e poi proseguiamo la nostra argomentazione. We make the rules and laws, we can do no wrong. You told me you're ready, you get it, you get it. Yeah, I love your letters, we're melodramatic. And you are my heaven, 24/7. I need your honey, I need your lemon. I don't need another reason, you're enough for me. Let's make some memories. E non c'è bisogno di niente. Ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Risalutiamo tutti i colleghi e tutte le colleghe che ci ascoltano e ovviamente a tutti gli amici e a tutte le amiche. Se vogliono passare dal Branca, noi a differenza di molte radio e molti programmi siamo aperti, basta che insomma bussate con i piedi e non con le mani. E chi ha buon intenditor, poche parole. Si parla nella puntata di oggi delle periferie, di come si vive nelle periferie, della nostra periferia, quindi della periferia del terzo municipio. Alice ci ha raccontato insomma dove sta lei, il quartiere dove abita, quindi fra Fidene e Colle Salario. Ci ha raccontato anche quello che fa all'interno del proprio quartiere, quindi fa sport, esce per negozi e compagnia bella. Quindi proseguiamo. Secondo te, Alice, quali sono i pregi e difetti del tuo quartiere? I pregi e i difetti. Allora, Cosa ti piace e cosa non ti piace di dove abiti tu? allora, a me non mi piace la sporcizia a terra. Non mi piace buttare che buttano la sporcizia a terra. poi non mi piace che buttano tipo per esempio la roba sulla metropolitana. Ecco, io per esempio vorrei dire a Lama, ecco, è Allora, tutta parliamo chiara. a Lama. Lama ci ama, quindi diciamo qualcosa appunto. Era da tanto che non parlavamo. Chi ci Lama. iniziava, chi ci ha ascoltato la scorsa stagione non si è potuta, non si può ovviamente ricordare quello che erano le bacchettate di Alice sul Lama, che ci ama nonostante tutto, dai. Allora, praticamente sulla metropolitana di Santa Maria del Soccorso, tra Re Bibbia e Laurentina stanno. È tutta sporca. Se dovete pulire. Quindi, allora, quindi in questo caso un po' all'ama e un po' anche l'ADAC, diciamo, perché le colpe sono di tutte e Ecco. due. Un po' le colpe sono di tutte e due, c'ha ragione comunque il nostro amico Pietro. Cioè, è giusto. E quindi che dovevo fare? E quindi ci tocca lavorare qua. Insomma, visto che stanno a fare Lavorare. concorsi e concorsi, lavoratori. E tutto eccetera eccetera. Però È collaborare. andata a ripulire la metro, vai. Intanto noi passiamo un altro pezzo e poi ritorniamo qui in diretta. Questo è Jolly Roger. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18 e potete riascoltarci tramite podcast e non solo, ci potete riascoltare i mercoledì sempre dalle 17 alle 18 su Radio Grad, anzi saluto gli amici di Radio Grad, tutti anche gli ascoltatori di Radio Grad e anche tutti gli ascoltatori di ascoltatrici di Gemini Network. Bellissimo pezzo questo portato dalla nostra amica Alice, che poi ci svela anche un piccolo segreto. E intanto proseguiamo la nostra chiacchierata sulle periferie e sulle borgate di Roma, spizzando un po' un po' su internet. Abbiamo trovato che vengono classificate ben 12 periferie o borgate. Prima Valle da Trionfale Boccea, Valmelaina oltre Montesagro e noi conosciamo benissimo, Tufello oltre Montesagro, anzi aggiungo Tufello, quartiere Bello, Libero e Ribelle, San Basilio da Tiburtina e Nomentana, Pietralata, Tiburtino Terzo e Prenestina, Quarticciolo, Gordiani, Tormarancia, Trullo e Acilia, anche se poi stavamo facendo un po' di conti anche fra di noi, mancano altre diverse realtà, quali ad esempio la Rustica, Corviali, poi manca Collatino, insomma mancano diversi quadranti di Roma, ecco perché si parla di periferie, proprio perché comunque il centro di Roma è un conto, la vita che si fa all'interno anche del centro storico di Roma, Trastevere, Testaccio, è tutt'altro che diversa appunto dalla vita dei quartieri di periferia, non solo per i servizi ma anche per la qualità di vita. E a riguardo, ora tocca al nostro amico Matteo e iniziamo con facendoci raccontare in quale zona di Roma abiti. Io parco da fine. A me molto mi piace molto, e c'è il bar, il ristorante, anche il maneggio, e anche... A sto punto, allora, stop un attimo Matteo perché ci siamo scordati, visto che hai detto il baretto, salutiamo il nostro amico. Luca. No, Luca, come si chiama il bar dove andiamo sempre noi, il nostro bar? Luciano. Perfetto. E poi io da dire dietro Ciomercale. Allora, infatti abiti anche vicino al centro commerciale di? E di Roma. Porta di Roma, esatto. Tutto a casa mia e deve lottata. E ne vado a fare, io faccio un giro a centro, e centro di detto Venezia, e poi io, ovviamente una volta che vai in centro dove vai a pranzo? Io dico nelle osterie tanti cavalli, esatto. Allora stop un attimo il nostro amico Matteo perché ora volevo dire fare alcune precisazioni. Obiettivamente Matteo abita in periferia, abita al Parco delle Sabine, ma una periferia altamente qualificata, piena di servizi, c'è il centro commerciale, appunto come dice il nostro amico Matteo, lui da casa sua, noi prende l'80 e va in centro ed è in centro, quindi non sono grandi distanze anche se non stiamo proprio in centro, oltre al fatto che poi appunto come ha menzionato il nostro amico Matteo c'è il maneggio, quindi c'è tanto verde intorno, c'è la possibilità di farsi una passeggiata a cavallo, ci stanno anche i cinghiali, è vero Ciccio? Ti ricordi un pomeriggio mentre io e il nostro amico Matteo andavamo a Porte di Roma, ti ricordi che cosa abbiamo incontrato?

E abbiamo parlato appunto di periferia, si può parlare delle periferie anche a riguardo appunto degli spazi che sono a disposizione per la collettività. Uno di questi ad esempio è il Branca, ci sono anche in tante altre realtà delle periferie romane. Anche perché non è così brutto vivere in periferia rispetto al centro. Indubbiamente ci sono periferie e periferie. Le periferie, come i quartieri belli, alla fine lo fanno le persone, non tanto i palazzi o tutto il resto. Ora, ad esempio, l'anno scorso, a riguardo delle periferie, abbiamo ospitato non solo qui a Brancaleone, ma anche in quel di Puzzle e oltre qui in Rati abbiamo ospitato quello che è stato un progetto che riguardava appunto il creare dei totem, appunto il nome del progetto, quasi per dare un'identità ai ragazzi, dare conoscenza soprattutto di dove si vive. È un progetto che appunto è stato fatto non solo nel terzo municipio, ma è stato fatto anche nel quinto municipio, e hanno partecipato appunto, oltre che da Prisma, altre realtà. Insomma, un progetto che appunto serve per far conoscere le periferie, non solo per riqualificarle, come avviene ad esempio. Faccio l'esempio di Tormarancia, che ormai gode di popolarità per i suoi graffiti che hanno arricchito i palazzi popolari. Anche se ormai di popolare anche lì è rimasto ben poco, perché tutte proprietà che sono state vendute, e ovviamente adesso come cambia le modalità di vita, anche le persone cambiano all'interno dei quartieri. E niente, allora, detto questo, nei quartieri si pratica anche tanto calcio, si pratica per le strade, per l'appunto, si pratica nei campetti che si costruiscono. Mi viene l'esempio di un campetto che sta a Colle Serpentaro, un campo da calcio che risale agli anni 80 ed è rimasto praticamente così, due porte in mezzo a tanta terra e tanta erba che viene tagliata dai ragazzini per giocare a pallone. E queste sono anche le realtà che esistono nel terzo municipio. Detto questo, appunto, si parla di calcio. Questa settimana ritorna il campionato di calcio. Noi siamo qua insieme al nostro amico Matteo, e ovviamente facciamo i suoi pronostici calcistici. Quindi, Ciccio, siamo pronti? Sì. Tremonerate, pite Tremonese. Poi, Vettus Verona, pite Verona. Poi, Ite Fiorentina, pite Fiorentina. E poi, domenica, Verona Udinese, pite l'Udinese. Perfetto, poi vuoi dirne un'altra? Dilla, Io un'altra dilla. Empoli, Lecce, pite Lecce. Mitico, queste sono il momento delle scommesse. Noi chiaramente, io ripeto sempre queste cose, però finora non si è presentato nessuno, quindi forse qualcuno non ha giocato bene, o forse qualche risultato proprio azzeccato non l'abbiamo dato, però non ci interessa, a noi ci diverte così, quindi andiamo avanti con il primo pezzo che ha portato il nostro amico Matteo. Sembra la fine del mondo, ma mi calma. Mi chiedono in che lingua sogno, che domanda. Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me. Ti prendi gioco di me? Bella atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. E poi bla bla, voglio stare in good time. Voglio stare in good time. Bella atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Colpo di fulmine, tu chiede Franklin. Giornalisti si moltiplicano gremlins. Ho già risposto a sta domanda se rileggi ciò che dici. No, no, non era radio friendly. Sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party. Ti cerco nelle storie anche per tuoi fotogrammi. Questi fanno le storie col tavolo degli altri. E vado down, down, down. Bella atmosfera. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in casa. Tutta gonfie vele, certi amici meno li vedi e più li vuoi bene. Notti intere con chi non ti chiede come stai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. In good time. Bella atmosfera. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bella atmosfera. Uccidere il mood, dai. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Voglio stare in good time. Siamo ritornati in diretta, anzi ritorniamo in diretta. Questo era il pezzo Good Time portato dal nostro amico Matteo, e queste sono anche le buone vibrazioni che proviamo a mandarvi tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Manca questa settimana per l'appunto il nostro amico Luca, ma i potenti mezzi di Pirate Radio ci hanno permesso di non annullare la rubrica per il momento, cioè annullare perché manca appunto il nostro speakers, di annullare la rubrica sulle battute, che fai tante cose sentendo un po' gli amici, un po' gente che ci ascolta, è il momento più hit della puntata. Anche questa volta il momento delle battute toccano alla nostra amica Alice. Allora passo subito il mic ad Alice. Se lavorare fa bene, perché non ne lasciamo fare agli ammalati? Grande. Sì, mi inviate 29,99 euro e vi dico come evitare le truffe su internet. La banana alla papaya. Conosci un buon avvocato? Quali sono le bibite elettricisti? Acqua col dente e birra alla spina. Questo è il momento obiettivamente che più ci diverte di Jolly Roger. Ci diverte perché noi ci divertiamo veramente con poco, insomma, chi ci conosce lo sa per bene. E andiamo con un altro pezzo musicale e poi ritorniamo in diretta sempre qui su Pirate Radio. Questo è Jolly Roger. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. You can started to cry, but then remembered diretta. Questo è Jolly Roger, stiamo arrivando alla conclusione di questa puntata in cui abbiamo raccontato un po' delle nostre periferie, nostre perché anche noi viviamo non in centro città, insomma, e ci piace anche non essere al centro della città. E a riguardo oggi intanto ringrazio tutti gli amici e tutti gli amici che ogni puntata ci sostengono, e a riguardo oggi sui social, scambiando un po' di battute con la nostra amica Cinzia, l'abbiamo invitato ufficialmente a raccontarci anche lei qualche cosa sulle periferie. A breve ci organizziamo e sarà ospite qui ufficialmente in radio. Abbiamo avuto ospite Daniele Savelli, che ovviamente ci ha raccontato della sua conoscenza con Rino Gaetano, e ora per par condicio invitiamo anche la coniuge Cinzia. È stata una puntata in cui appunto si parla di periferia. Abbiamo raccontato come Alice, come Matteo vivono il proprio quartiere, quindi in questo caso le periferie, che non sono così male come a volte sembrano, raccontano di criminalità, ma non è il caso di Montesacro, del Tufello, di Fidene, di Parco delle Sabine, insomma non è espediente questo nostro, anche se un po' di criminalità sta ovunque, quindi non è solo relegata alle periferie. E niente, allora noi proseguiamo con un altro pezzo musicale e poi ritorniamo sempre qui in diretta su Jolly Roger. If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here? You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a lover. Everybody's looking for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on. If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life. Could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. 'Cause I'm not here to make friends. No, I'm not here to make friends. Yeah. 'Cause I'm not here to make friends. I need a lover. I need a lover. I'm just being honest, baby. I just need a partner when the lights come on. Yeah, yeah. 30 almost got me, and I'm so over love song. Yeah. So if you want it bad tonight, come by me and drop a line. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. Somebody, for somebody to take home. I'm not the exception, I'm a blessing of a body to love on. Questo è Jolly Roger, ultimi minuti per noi. È stata una piacevole chiacchierata in cui abbiamo raccontato, come dicevo per l'appunto prima del pezzo, un po' di come si vive in quel di Montesacro, in quel del terzo municipio. Oltre ad aver fatto un invito ufficiale alla nostra amica ascoltatrice Cinzia, che ci racconterà insomma alcune cosette, poi spoileremo a breve quando sarà ospite qui da noi. Come detto e ripetuto a sufficienza, siamo contenti di essere ritornati nella nostra amata bolla. Settimana scorsa, ora che mi sono girato verso il nostro amico Matteo, abbiamo festeggiato i suoi 18 anni. Per l'appunto, visto che siamo in conclusione di puntata, facciamo i saluti. Ciao a tutti. Saluto Giovanna Mina e i miei compagni di classe. Perfetto, allora, salutiamo anche noi la terza E del liceo linguistico Orazio. A breve qualche compagno di Matteo risarà ospitato qui da noi e quindi proseguo la collaborazione con la classe di Matteo. Passo il mic ad Alice per i suoi saluti. Ciao a tutti. E noi pure, saluto tutti e tutte, auguro a tutti e tutte soprattutto un buon weekend che sia soprattutto di riposo e relax. Il tempo pare che sia bello, quindi ci si ritroverà sicuramente in giro e noi ci rivediamo qui, cioè noi quei ragazzi ci rivediamo settimana prossima, ovviamente ci riascolterete la settimana prossima sempre dalle 17 alle 18. Questo è Jolly Roger. I got the devil in me. Woo! Ah. Gloria nell'alto dei cieli. Ma non c'è pace qua giù. Yeah, yeah. bacio ai miei. Viva! Sensazione!